La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, sabato pomeriggio come sempre insieme per scegliere i film da vedere al cinema sul grande schermo in sala. Ed è una settimana davvero molto intensa con quasi una decina di uscite, e noi come sempre facciamo delle scelte e pensiamo di aver fatto delle scelte che siano probabilmente le migliori a disposizione in questo weekend. Cominciamo subito con il tuffarci dentro un film che prende in mano una questione che il cinema aveva un po' perso per strada negli ultimi anni. C'erano stati grandi capolavori, pensiamo a Philadelphia, pensiamo a Milk, ma poi il tema dell'AIDS era tornato un po' nell'oscurità, almeno cinematografica, come forse è successo ai noi nel calo della percezione e dell'attenzione anche nell'opinione pubblica. Invece Jean-Marc Vallée lo riporta in auge con una grande interpretazione di Matthew McConaughey, come da manuale di Actor Studio, con Jared Leto, con Jennifer Garner, in un film che si intitola Dallas Buyers Club. È risultato positivo all'HIV. Signor Woodruff, riteniamo che lei abbia ancora all'incirca 30 giorni di vita. E allora, questa è la sentenza che arriva sulle spalle di Ron Woodruff come un fulmine a ciel sereno. Ron è un elettricista del Texas, cowboy da rodeo a tempo perso. Siamo nel 1985, proprio nel momento in cui l'AIDS esplode quasi in maniera inconsapevole per chi lo subisce. E Ron Woodruff è proprio uno di questi, un uomo che vive la sua vita a mille, sempre a testa bassa, sesso, droga, alcol, senza regole. Ma quando arriva questa sentenza da parte di un medico, dopo una prima ribellione, non c'è che prendere atto di quello che sta veramente succedendo, ovvero che ci sono 30 giorni per sistemare le sue cose, come gli dice il medico. Ron prima rifiuta di accettare questa sentenza, poi però reagisce, lo fa con disperazione, come abituato a vivere, cercando dalla dottoressa Jennifer Garner proprio di entrare nel programma di sperimentazione della ZT, che proprio in quegli anni, in quei mesi, sta muovendo i primi passi come possibile farmaco contro l'HIV, e non entrando in questo piano ci prova da vie traverse. In Messico hanno ottimi farmaci, migliori di quelli che puoi trovare negli Stati Uniti. La trovo bene. In effetti sono una meraviglia. Ci si può fare una fortuna. Parliamo di distribuzione. Niente da dichiarare? Padre? No, signore. Insomma, padre, perché si traveste anche da prete per cercare di portare avanti dietro da quel confine del Messico questo traffico di farmaci alternativi che potrebbero davvero e in effetti daranno speranza a un nutrito numero di persone. Insomma, combatterà con tutta la dignità che forse fino a quel momento non aveva ancora trovato Ron, la sua battaglia contro l'AIDS per una medicina giusta. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, un film, dicevo prima, come si deve fare, è un film impegnato, schierato, che racconta una storia importante, con un'interpretazione di Matthew McConaughey proprio da manuale dell'Actor Studio, dimagrito in maniera clamorosa, saranno 20 kg in meno, scavato proprio il tema dell'immedesimazione nell'attore. Forse, secondo me, un'interpretazione talmente appariscente che si mangia addirittura il film. Il film se lo mangia, anche perché secondo me come regia e sceneggiatura il film è quasi scolastico, non dà nessuna nessuna sorpresa, nessun momento, nessun picco. Il punto è che effettivamente credo che sia come una grande squadra sportiva che punta su due campioni, perché non dimenticherei anche Jared Leto, che è una spalla di Matthew McConaughey straordinaria. Cioè il film è costruito su queste grandi interpretazioni, scommettendo sul fatto che due grandi attori saranno grandi anche nel film. Il resto è la storia vera, una storia che è ancora più bella di quella di Philadelphia, perché quella di Philadelphia era una storia buona, era una storia giusta, il protagonista veniva dalla parte giusta, combatteva una battaglia giusta. Qui c'è invece un omofobo, un razzista, un uomo che fino a quel momento forse non meritava di vivere, però si conquista la propria voglia di sopravvivere trovando quella dignità che tu dicevi, combattendo una battaglia all'inizio illegale contro le multinazionali, contro lo Stato, e che poi però diventa una battaglia giusta perché è una battaglia per la vita, perché lui la condivide prima per lucro e poi per ideale, per solidarietà, con questo Buyers Club, perché lui ne fa anche un sistema di guadagno. Cioè lui fa tutte le cose sbagliate, ma alla fine prende la strada giusta. E questo ci affascina soprattutto perché McConaughey ha la faccia e la capacità e il talento per raccontarci un uomo, un po' una sorta di Schindler dell'AIDS, che pur non avendo valori straordinari trova però il modo di essere eroico e straordinario. E allora sentiamolo, Matthew McConaughey, in una proprio risposta catturata proprio dal nostro Boris Sollazzo nel suo passaggio a Roma. Sentiamo. Well, what I've been able to, look, they've all been... Tutti i personaggi del film sono emarginati. Sono persone che vivono ai margini della società. Se vogliamo generalizzare, li possiamo definire antieroi. Certo, non sono i buoni. La cosa positiva di essere antieroi, però, è che l'antieroe le regole se le scrive da solo e non segue quelle imposte dagli altri. Questo significa che ciascun personaggio ha un'identità molto chiara, molto definita. E a me questo piace, perché mi piace andare a cercare la loro ossessione, la chiara ossessione. È una cosa che trovo molto interessante. Certo, non sono i classici eroi standard. E allora, questo Matthew McConaughey, noi a questo punto vi ricordiamo che da questo momento, andando sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccando mi piace ove voi non siate già nostri seguaci, troverete un post per andare a vedere al cinema 5 coppie di biglietti, quindi 5 coppie di nostri ascoltatori, andare a vedere al cinema Dallas Buyers Club, in tutti i cinema che fanno parte del circuito Io Vado al Cinema, li trovate tranquillamente. Tranquillamente su internet, gli ascoltatori che risponderanno al post che da questo momento trovate sulla nostra pagina Facebook, i primi 5 ascoltatori riceveranno ciascuno una coppia di biglietti. Attenzione, rispondete solo al post, non attraverso messaggi sulla nostra pagina Facebook, varranno solo le risposte al post che trovate da questo momento. E allora a questo punto noi andiamo a giocare insieme con la prima delle nostre due tracce di un film misterioso e anche molto molto pop questa settimana. Alfa 7 chiama base, uscirò dalla zona di attrazione solare entro 6 minuti e 30, date conferma. Base ad Alfa 7, ricevuto. E allora, avete indovinato già di che film si tratta? Ho detto un film molto pop e scoprirete poi perché. La Rosa Purpurea, @radio24.it, scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo privato, provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana, ma più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora diamo un'occhiata alla classifica prima di dare la linea alla regia, perché The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, super candidato all'Oscar, se la vedrà proprio con il Matthew McConaughey di Dallas Buyers Club, queste almeno sono le previsioni. Insomma, è partito fortissimo in Italia, 3.800.000 euro nel primo weekend di programmazione, davvero una partenza record, una delle più grandi partenze dello Scorsese recente. Secondo posto per un altro film appena uscito in Italia, Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese con Marco Giallini, 2 milioni di euro al primo weekend. Terzo posto per un'altra new entry, A spasso con i dinosauri in 3D, lo spettacolo per i ragazzi, 1,5 milioni nel primo weekend. Al quarto posto il primo dei film che già erano in classifica, Il capitale umano di Paolo Virzì. Parte piano invece Last Vegas di John Turteltaub con il quartetto di attori di qualche generazione fa, Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, che è solamente in questa prima settimana all'ottavo posto. La Rosa Purpurea. Take me, I never meant it, never thought that it would come to pass. Sulle note di una delle splendide canzoni della colonna sonora dei Segreti di Osage County, parliamo di questo film firmato John Wells con un grandissimo cast su tutti, Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, un film tratto da una pièce teatrale recente della metà del primo decennio degli anni 2000, scritta da Tracy Letts, film che la pièce che ha vinto il premio Pulitzer, è andata in scena in tutti i maggiori teatri degli Stati Uniti ed è diventata diventata adesso appunto un film, dopo aver vinto 5 Tony Awards come commedia teatrale. Commedia sì, ma non troppo, commedia molto amara, la storia di questa sorta di ritrovo, come spesso accade anche nel cinema, lo ha raccontato spesso, come spesso accade nei funerali, quando arriva il momento di riunirsi, di riunire la famiglia, gioco forza attorno a, a uno scomparso, in questo caso il padre di famiglia, o a un morto in altri casi, è il momento del redderazione, è il momento della resa dei conti, in cui vengono fuori tutti gli altarini. Ed succede questo anche in questo I segreti di Osage County. Una coppia anziana, Julia Roberts è la, scusate, Meryl Streep è la madre, rimane così un po' scioccata dalla scomparsa improvvisa appunto del padre di famiglia. Arrivano le tre figlie, arrivano con il loro carico di mariti, divorziandi, amanti, eccetera, e si vengono fuori un po' tutte le storture di questa famiglia del Midwest, costretta a stare insieme. E allora andiamo a sentire questa clip, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Presto te ne andrai e non tornerai più. Quando è stata l'ultima volta che sei venuta qui? No, non cominci. Non mi importa di voi due, ma mi farebbe piacere vedere mia nipote una volta ogni tanto. Beh, la stai vedendo adesso. A tuo padre gli hai spezzato il cuore quando sei andata via. Sei veramente cattiva. Che faccio? Vi devo separare? È la preferita di Beverly, non far finta di non saperlo. Io preferisco pensare che i miei genitori amassero i loro figli nello stesso modo. Ma sono sicura che tu preferiresti anche pensare che è Babbo Natale a portarti i regali. Se avessi più di una figlia, sapresti che un genitore ha sempre un preferito. È una delle tante verità amare, insomma, che vengono fuori in questo film. Boris, il film a me è piaciuto molto. E mi è piaciuto molto per tanti motivi. Per la storia, per l'amarezza che trasuda, per la non scontatezza. In questi giorni la terza età è raccontata anche in Nebraska, al cinema. Insomma, il cinema americano sta facendo molto i conti con questo momento della vita. E qui a subire con spavalda durezza... È proprio il personaggio di Meryl Streep. Tutti hanno detto straordinario, aggiungerei anche Julia Roberts in una prova notevole, sempre tesa come una corda di violino. Ma un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo film è il fatto che si sente, ma non troppo, cioè è riuscito ad affrancarsi abbastanza dalla sua matrice teatrale. Pienamente d'accordo, credo che l'affrancarsi dalla matrice teatrale dipenda tutto da ciò che Tresilets ha sempre detto che mancava a teatro, cioè l'Oklahoma. Lui ha insistito quando ha venduto i diritti perché si girasse laddove aveva pensato quel racconto, e in effetti quegli ambienti quasi desertici, quell'aridità che si rispecchia nei sentimenti che sentiamo nel racconto, sono qualcosa che tolgono, diciamo, magari quella pesantezza teatrale, e dà tutta una fluidità al racconto. Hai ragione su tutto, e devo dire che I segreti di Osage County ha anche il pregio di sorprenderti. All'inizio hai l'impressione di essere di fronte al classico melodramma familiare. Il cinema l'ha usato e ne ha anche abusato, secondo me, di questo schema, e poi piano piano, a partire da questa coppia vecchia ma soprattutto stanca, vittima di abusi normali in questo mondo, in questa società, in quest'epoca, ma che comunque sono segnale di qualcosa, di un disagio molto più profondo, comincia a spezzarsi, cioè tutto quello che immaginavamo perfetto, normale, diventa invece disagio, difficoltà. E bravissime sono le due attrici. Se parlavamo in Dallas Buyers Club di due attori che si prendono sulle spalle il film, a maggior ragione qui Meryl Streep e Julia Roberts sono straordinarie. Meryl Streep è in una delle sue migliori interpretazioni, ci racconta davvero cos'è un nucleo familiare affettivo in tutta la sua crudezza. Dall'altra parte Julia Roberts è la figlia perfetta, la figlia che ha sulle spalle tutte le tensioni di una famiglia che probabilmente sotto le apparenze era tutta sbagliata o quasi. E quindi alla fine ti ritrovi di fronte a un film normale, classico in tante cose, ma straordinario nell'emotività che ti scatena, che è tutta ghiaccio bollente. Quindi davvero, devo dire, uno dei film migliori di quest'anno. E allora, I segreti di Osage County, promosso a pieni voti dalla Rosa Purpurea. Grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, questi i nostri consigli di visione in sala. Andiamo a giocare ancora insieme perché c'è la seconda traccia del nostro game di oggi. Colemonia, o si ricordo chi? O si ricordo che l'avano su. Scusi, ma io non capisco. Come vi dice lui, alle cose fiscali. Parlez-vous français? Tu lì, no, che ne vede zucchini, a rozzi. Proviamo un po' col chiacchieratore. Come si sente adesso? Oh, sì, molto meglio. E allora, come vi sentite voi invece? Avete capito di che film si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it. Scriveteci una mail con il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che indovineranno, e settimana prossima vi diremo di che film si trattava. Fra poco risolveremo il game invece di settimana scorsa. Prima però una parentesi teatrale, perché proprio in questi giorni è in scena al Teatro Arcimboldi di Milano un musical, uno spettacolo musicale da mattatore però, di Christian De Sica, si intitola Cinecittà. Non potevamo che ospitarne una recensione e un'intervista. Allora cominciamo ad ascoltare un pochino questa piccola clip che ripercorre un po' i momenti salienti dello spettacolo. E io mi faccio un giro per Cinecittà e penso a quanti sono passati da qua. Alberto Sordi è mio zio, per me è sempre stato un parente. Ogni volta che veniva a casa era una festa. Alberto era un attore che non faceva ridere dicendo le battute, ma soltanto un "ma chi sei? Ma che vuoi?". Cinema ha un'energia che può trasformare la realtà, la forza di farci continuare a sognare. E allora, questi momenti salienti di questo spettacolo Cinecittà al Teatro Arcimboldi di Milano. Abbiamo chiesto a Christian De Sica di raccontarci però perché questo spettacolo e cosa rappresenta Cinecittà. È uno spettacolo che nasce appunto dalla voglia di cercare di portare avanti Cinecittà. Noi abbiamo avuto il sentore che Cinecittà se l'erano un po' dimenticata. Tu attraverso la storia di Cinecittà puoi raccontare anche la storia del paese. È stata imperiale, aristocratica, democratica, popolare e adesso bene o male non... televisiva, quindi vai da Hollywood sul Tevere quando Burton e Liz Taylor più giravano Cleopatra oppure William Wyler Ben-Hur fino ai telefoni bianchi e poi dopo il cinepanettone. Senti, Rossellini, Sordi, ma quali altri numi tutelari spuntano fuori dal tuo spettacolo? Beh, mio padre, Cesare Zavattini, Alberto Sordi, Liz Taylor, Ava Gardner, Frank Sinatra, Raffaella Carrà, perché quando ha girato Raffaella Carrà il von Ryan con Sinatra, anzi, c'era quasi una storia d'amore tra di loro, chissà Iapino dove stava in quel momento. E allora Christian De Sica, Cinecittà al Teatro Arcimboldi fino al 2 febbraio a Milano, ma poi Ancona, Bologna, Torino dal 4 di marzo e infine Roma dall'11 di marzo, insomma la tournée di uno dei più grandi mattatori della commedia italiana. E a questo punto noi andiamo invece a risolvere il gioco di 7 giorni fa. Ora, non so perché io nell'esercito ci stavo come un pesce dentro l'acqua. Non è così difficile, devi solo rifare il letto lindo e pinto e stare in piedi diritto. E ogni domanda rispondere sempre: sì, sergente istruttore. E allora, si trattava di Forrest Gump, come hanno ben capito numerosi, tanti dei 100 e rotti ascoltatori che nei primissimi minuti del nostro game hanno inondato di mail la nostra casella. I più bravi e più veloci sono stati Giulio Malvezzi di Concordia sulla Secchia, provincia di Modena, e Giulia Ferraro di Garbagnate Milanese. Entrambi riceveranno questa edizione molto bella di Forrest Gump in Blu-ray con il Digibook, quindi un libro con dentro il Blu-ray, insomma l'edizione è piuttosto pregiata, di cui ci facciamo spiegare tutto dal nostro Giulio San Giorgio della redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, all'interno della appetitosissima Masterwork Collection, Paramount ci propone in Digibook più Blu-ray Forrest Gump di Robert Zemeckis, film vincitore di 6 Oscar e firmato da un autore che non so tu, ma io amo moltissimo, capace di essere avanguardista tecnologico e fine pensatore all'interno di un cinema popolare. L'edizione è proprio notevole, presenta un libro fotografico di elegantissima fattura che racconta tra le sue pagine la storia produttiva del film, mentre il Blu-ray allegato propone una sorprendente, per un film di 20 anni fa, resa audio-video e ottimi contenuti extra, tra cui un commento audio al film colmo di kit. E allora, questo è il game della scorsa settimana e quindi, insomma, ottimo cinema e un'ottima edizione. Ma in TV, come sempre, andiamo a spigolare per trovare il meglio che c'è. E io devo dire, Giulio, quando vedo che in programmazione c'è Turista per caso, mi fermo sempre. Domenica 2 febbraio su Iris. Sì, le 21 su Iris, Turista per caso. Tra un grave lutto, una crisi coniugale e la possibilità di un nuovo amore, la ronda emotiva di un estensore di guide turistiche per viaggiatori principianti, un film dove Lawrence Kasdan gioca sui toni della commedia malinconica tra umorismo leggero e risvolti drammatici ed esalta assolutamente il trio d'attori William Hurt, Gina Davis che vinse il premio Oscar e Kathleen Turner. E allora, questo è l'appuntamento cinematografico in TV, quindi domenica 2 febbraio su Iris alle 21 con Turista per caso. Grazie Giulio e un saluto a tutti gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata della Rosa Purpurea. Non mi resta il tempo che di darvi appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24, come sempre il sabato alle 16 per la Rosa Purpurea, per tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti.